Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. E il muro di omertà che c'è stato per un lungo periodo all'interno del corpo dei carabinieri, non di tutti, è dimostrata dal fatto che la verità è emersa dopo 10 anni. Allora, perché il corpo dei carabinieri, so, in parte, ha mostrato omertà. Tant'è che ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma! Ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma! Ha capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa! Ma urla poco! Hai capito o no? Hai capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa! Hai capito o no? Scusa, ma stai parlando in tedesco? Parla! Parla! Il processo! Parla! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sì, buonasera. Senta, vorrei fare una domanda a Parenzo. Non c'è, è andato via ora. Dottore, no, c'è. Uscito, Lotto Coglioni, trasmissione, dato via. Cane rognoso. No, vorrei sapere perché è rimasto schifato da quello che sniffava la stazione. Beh, ti credo. Beh, chiunque, insomma, credo. Adesso questo qua. Come è cosa credo? Strana, perché però, siccome voi siete a favore della droga, no, noi non siamo. Non dovete spaventare per questo. Ma io non sono a favore della droga, caro Giorgio. Come non no? Sono. La liberalizzazione. Si chiama legalizzazione. Non sono. Legalizzazione. E non sono. Ma non senti la voce impastata. Secondo te questo cosa fa? Sicuro. Cioè tu ti fai. Ma che dici? Ma che stai di? I Grugiani. Ma che stai di? Secondo me al 100% posso dire. Comunque andiamo avanti, sarai ubriaco. No, non sono ubriaco. L'unico mio errore è che me ne sono drogato. No. Perché io volevo arrivare che siete anche a favore delle leggi con i gay, e se si baciano per strada non siete schifati? Certo che non. Cosa c'entra pippare la cocaina? Come c'entra? Come sarebbe dire? Hai parlato che i tuoi figli si vergognavano per vedere quello sniffare. Per due che si danno un bacio non si vergognano? Ma non è la stessa cosa, sciocco che non sei altro! Non è la stessa cosa. Di fare il tuo bambino, che cosa gli spieghi? Che cosa gli vogliono bene? Cosa gli spieghi, dice Giorgio? Cosa gli spieghi al tuo bambino? Gli dico che si vogliono bene, rispondi, no? A Giorgio, cosa gli spieghi? Due che si baciano, due gay che si baciano. Non me lo chiedono, perché sanno che è normale. I miei figli non me lo chiedono. Ma è normale? Perché i miei figli si vergognano. E perché, scusa, che male perché c'è? Sono figli tuoi, infatti! Vai, e si dovrebbero vergognare di te! Ma vaffanculo, va, sta a rovinare l'Italia, tu! Ma chi sta a rovinare l'Italia? Scusa, Giorgio. Sì, con lo tenello lì! Scusami, Giorgio! Con tutte le marchette che fa, una volta dice una cosa, una volta dice un'altra! Ma cosa c'entra? Ma vaffanculo, va! David è molto contento di finire questa seconda settimana. È molto contento di liberarsi da queste torture, da queste storture, da queste cose incredibili che avvengono nel carrozzone della zanzara. Ma il sabato e la domenica senza zanzara, cosa fa David Parenzo? No, ma infatti... Respira, si sente meglio, respira l'aria della cultura. La cultura, quella che dice lui, naturalmente. No, cosa fa? Applausi intanto, regia. Buonasera, applausi, buonasera. Parenzo, buonasera. No, mi preparo. Leggi qualche libro libro di Zagrebelsky, leggi qualche libro di Michele Ainis. No, adesso mi preparo all'uscita del prossimo libro di Scurati sul Duce, e quindi ecco, mi preparo a quello. La solita marchetta, ma marchetta, la solita per la Bompiani, se non ricordo male. Ma al di là degli editori, mi preparo a festeggiare il Capodanno ebraico. Sì, perché stasera è il 5781. Va bene tutto, va bene il Capodanno ebraico, ma non è il 5781 dalla creazione del mondo. No, ma poi spiegheremo tutto. È il 2020, non è il 5000 rotti in culo. 5781 dalla creazione del mondo. Si festeggia, perché non lo sai, la creazione dell'uomo. Quindi si festeggia che sei nato anche tu, schifoso. E tutti gli schifosi che chiamano qua. 5781, ma ti rendi conto? Dalla creazione del mondo. Ma non è vero, sono fandonie. È una fandonia colossale. No, ma dovresti. Ma questo calco. Ragazzi, fermi tutti. Dovresti festeggiarlo anche tu, perché si festeggia la nascita dell'uomo. Ma chi lo dice? Ma lo dite voi? Ma lo dite voi? Dovrebbero. Coi cappuccetti, col cazzo scappellato. Dai, su. Lo dite voi? Infatti, lo vuol dire, non è un'accusa. Lo dite voi, però, che è il 5781. Nessuno, è il 2020, pure. Ma è l'anno lunare, siccome l'anno ebraico va con la luna. Ma i tuoi figli non sanno, i tuoi figli sanno che è il 2020, non il 5781. Oggi si festeggia il 5781. Ma ti mandano a fare il culo se li dici oggi. Del ma se gli dici che se dici a tuo figlio, caro Nathan, è il 5781, quello dice: ma va, ma che cazzo dici? È il 2020, dice, porca puttana. È vero, 2020, ma è dalla creazione del mondo. Da Abano Terme, perché anche lui sa che il 2020 o il 5781, ovviamente Alberto Gottardo, eccoci qui. Dai Parenzo, ma come fai Parenzo a dire che siamo nel 5000 e rotti? Siamo nel 2020. Rotti. No, è rotti. Dai, ma che roba 5781, ma in base no, a cosa? Ma in base roba a medievale, cosa? Una roba dalla medievale. No, medievale, dalla creazione del mondo, ma dalla creazione del mondo. Ci credete solo figurati, voi a queste cose. Figurati. Allora figurati. Ragazzi, fermi tutti. Io direi di partire da Bassetti, dal mitologico Bassetti. Molti di voi magari non lo conoscono. È un virologo, credo, di Genova. Virologo, non lo so, perché qui parlano tutti. Estetisti. Virologi, veterinari, ma non è la stessa cosa, però. Che ne so, radiologi, eccetera. Bassetti è uno di Genova che è, non dico un negazionista, ma uno di quelli che ridimensiona. Non è un allarmista. Ecco. Raccontano il Covid, manco fosse Ebola, clima di terrorismo, e ha assolutamente ragione. Vede, io ho passato l'estate intera con suoi colleghi a spiegare che il terrorismo non portava da nessuna parte. Questi sono i risultati di aver passato due mesi a fare terrorismo sui giornali e sulle televisioni. Questi sono i risultati, perché la gente è terrorizzata di prendere il Covid, perché gli abbiamo spiegato che se prendevano il Covid morivano come se prendevano Ebola. Forza Bassetti, forza quelli. Infettivologo. Te l'ho detto. Sì, sì. Forza quelli anche che. Gottardiano. Beh, adesso Bassetti. Ti potrebbe anche querelare, posso dirti. Allora, ragazzi. Ti potrebbe portar via tutto. Sì, ti potrebbe portar via tutto. Porro sostiene che quelli che vanno con la mascherina in monopattino sono il prototipo del coglione moderno, in mascherina e col monopattino. Anche senza mascherina. Anche senza mascherina. No, ma perché adesso quelli che vanno col monopattino sono dei coglioni? Beh, sono pericolosissimi. Ma che cazzo vuol dire sono pericolosi? No. Assumono la responsabilità di andare col monopattino. Come in motorino, uguale. No, peggio, secondo me. Secondo me è più pericoloso. Bene, noi accettiamo i monopattini, in cui questi coglioni, scusate il termine che ci sono dei bambini, mi scuso, ma dovete iniziare a capire da bambini, piccoli, adesso. Questi deficienti, tu vedi il prototipo del coglione. Sapete com'è il prototipo del coglione? Sul monopattino con la mascherina. È il prototipo del coglione moderno. Allora, posso dirti una cosa adesso, Porro, che giustamente nel podcast che fa, nella zuppa di Porro, manda a fare in culo tutti. Adesso che si scandalizzi perché dà del coglione, attenzione, ci sono dei bambini, perché dice che il monopattino, quello col monopattino e la mascherina, il prototipo del coglione moderno, mi sembra uno scrupolo eccessivo. Più facile ammazzarsi con il monopattino che prendere il Covid, vai. Io ve lo voglio dire, avete presente, se voi dovete descrivere un coglione, se Osho deve descrivere un coglione, deve prendere un monopattino, deve prendere un ragazzo, piazzarlo sopra e mettergli la mascherina, magari con un'altra dietro con la mascherina, giuro col visto, in due, col monopattino, con la mascherina. Sapete perché? Perché questi sono dei cerebrolesi. La possibilità che loro hanno di farsi male col monopattino è 100 volte superiore a quella di prendersi il virus. Eppure devono essere tutti con la mascherina, perché se la mascherina non ce l'hanno sono dei negazionisti, se sprecciano col monopattino sono dei ragazzi green. Fottetemi. Allora, andare col monopattino non attacca niente a nessuno, questo lo possiamo dire. È vero che andare col monopattino è più pericoloso, secondo me, hai certo più possibilità di crepare che prenderti il Covid, su questo non c'è dubbio. E poi, ragazzi, questa criminalizzazione del monopattino non lo capisco. È vero che spesso vengono usati come oggetti contundenti sotto casa mia, l'altro giorno degli ubriachi l'hanno lanciato contro le macchine. Ed è pericolosissimo, è pericolosissimo. Io l'ho usato il monopattino al negozio. Io sono uscito l'altro giorno da un negozio, ho rischiato di salire direttamente sul monopattino perché c'era un cretino che sfrecciava proprio sul marciapiede. Infatti non devono andare sul marciapiede, sono dei criminali quelli che vanno Ma quello perché sbagliano ad andare sul marciapiede. Ma di per sé il monopattino non inquina ed è straordinario per questa mobilità sostenuta vantaggiosa nelle grandi città. Certo. Batte l'inquinamento. Ti esce l'autobus e ci si schianti contro e vaffanculo anche la ecosostenibilità. Sì, però dobbiamo ripensare quelle che si chiamano le smart city, ad esempio. Giù il microfono, c'è una trasmissione qua che si chiama Smart City, peraltro. Ma vai a cagare. Ma come va a cagare? Le Smart City. Senti Adinolfi contro Luxuria ieri sera da Del Debbio, l'ho visto. Spettacolare. Sembrava Del Debbio, la voglio dire subito, una zanzara. Sembrava una zanzara in televisione la trasmissione di Del Debbio. Pensa quanto grosso deve essere il monopattino per portare Adinolfi. Adinolfi non credo che possa andare nel monopattino. Posso dirti che non credo che l'immagine di Adinolfi col monopattino sia un'immagine quanto che vedremo. Quanto dovrebbe essere questo, il monopattino è buono, di questo Adinolfi. È molto buono. Non si sa ad oggi neanche veramente cosa è successo. Non si sa se Maria Paola è caduta dal motorino perché quel motorino andava troppo veloce. Non si sa se quello che sta succedendo. Ma cosa dici? Ma cosa dici? C'è un fratello invece di far parlare la sorella ha picchiato il tram. Fate finire. Ma chi sei? Sherlock Holmes. Avete sentito la teoria di Adinolfi su quello che è successo a Caivano? Potrebbe anche darsi che quella sul motorino, cioè la morta, la persona morta, Maria Paola, potrebbe anche darsi che andasse troppo veloce. Straordinario, ragazzi, questo è stupendo, vai. Quale problema hai Adinolfi? Le unioni civili no, e i diritti civili no, la legge sull'omofobia no. Ma poniti il problema, perché ce l'hai con noi? Curati, fatti vedere. Io ho diritto di parola fino a quando non arriva la sua legge. Fino a quando non arriva la sua legge. Io ho diritto di parola. Oh, poi Adinolfi sostiene. Però posso dire che è brutto che lo chiami Vladimiro Guadagno. È irrispetto. Perché si chiama, perché nella sua carta d'identità non si chiama più Vladimiro Guadagno. Ma quindi è una mancanza assoluta. Te lo dico io. È una mancanza assoluta di rispetto. Qual è il problema? Ed è uno sfregio. È molto brutto che un uomo che si dice cattolico, cristiano, eccetera, sfregi una persona che invece è una donna, si sente una donna e ha diritto di essere riconosciuta come tale. Ma non ho capito perché non lo posso chiamare. Vado via, e adesso vado via, me ne vado, colgo l'occasione di questa cosa per andarmene via prima. Ma perché non lo può chiamare Vladimiro Guadagno? Perché, non l'ho capito, si uno chiama sfregio. Vladimir Luxu, non ma si chiama in galera, Vladimiro. Allora lo vogliamo mandare davanti a un tribunale perché dice Vladimiro Guadagno? È un gran maleducato, sì, dovrebbe essere sanzionato, sanzionato. Non rispetta la persona. Votiamo no e mandiamo il signor Beppe Grillo a fare in culo. Vaffanculo, Beppe Grillo venduto. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. La Zanzara. 1, 2, 3, 4, Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Hot podcast a palla mentre passo davanti a un asilo e ci sono i genitori che stanno aspettando, volume a tutto spiano mentre Cruciani parla dei certificati di virginità e Gottardo lo corregge o aggiunge anche quello del culo. Mi giro, stavano tutti guardando dentro sta macchina. Ma cosa combina sta zanzara le persone? Mamma mia, ma sei sempre più pezzo di merda, Parenzo. Più passano gli anni, più sei proprio una schifezza di uomo. Ma ti rendi conto di quanto sei coglione? Ma come cazzo non ti vergogni? Pezzo di merda rincoglionito che non sei altro. Ciao! Cruciati nel corno, cornuto! Comunque ragazzi, questa è l'unica trasmissione che manda in onda sì, no, insulti infatti continui ai conduttori. Ma infatti te lo stavo per dire, i ma conduttori che ha? Si insultano tra di loro. Sì, spesso. E più mandi gli insulti della gente che in genere le trasmissioni cosa fanno? Fanno il copia e incolla e mettono solo i complimenti a grazie, quasi sempre sì, bella sì, quasi sempre. No, sempre così, applausi, sì, entra un conduttore, beh, applausi. Io invece ma immagino una trasmissione. Esatto, no, immagino una trasmissione in cui noi entriamo e la gente dice maledetti andate via. Bellissimo, maledetti andate via. È un grande bellissimo. Anche un grande titolo, no? Maledetti, andate, maledetti. No, breve deve essere, breve. Dai, sì, una parola sola, maledetti. Funziona, dai, funziona solo così. Dai. Tre notizie, ragazzi, di oggi che sono degne di nota, secondo me. La prima, Taormina. Devi chiedere scusa a Carlo Taormina. In non... ginocchio, devi chiedere scusa a Carlo Taormina. L'hai definito come uno che perde sempre i processi, continuamente. Beh, sai. Perde continuamente i processi. Devi inginocchiarti di fronte all'avvocato, chiedo scusa. Ti perdono, lo dice lui. Chiedo umilmente scusa per averti definito uno che perde continuamente processi. Ha vinto una causa da 450.000 euro contro la Franzoni. Ma ho capito. Ha fatto pignorare ma la villetta di Cogne. Ma è una cosa che chiunque avrebbe vinto, scusami, beh, dai. Beh, sai di questi tempi. Sai di questi tempi. Chiedi a Gottardo. Ma scusami, Gottardo, la storia è molto semplice, no? Credo quella che non l'ha pagato. Anche un ragioniere fa fare un decreto ingiuntivo, non ci vuole certo. Un decreto ingiuntivo alla zanzara, dai, su, ma chi sei? Su, un decreto ingiuntivo. Allora, la seconda cosa. Io fossi Taormina, affitterei quella casa a Vespa, che invece di usare il plastico, questa è buona, fa direttamente la questa casa. È buona, sì, questa è buona. Peccato che la storia è finita, però insomma, non credo che Vespa abbia bisogno di utilizzare quella casa. Però è vero, chi è che affitterebbe la casa di Cogne? Questo è interessante. Taormina. No, ma ti ricordi che una volta lo disse da noi tempo fa? Dici, io disse, bisognerebbe recuperare l'audio di tanti anni fa. No, sì, sì. Disse, intanto la prendo, poi vediamo, magari l'affitto. Sì, beh, magari l'affitto, sì, ma intanto la prendo, sì, intanto la prendo. Poi magari l'affitto, dai. Poi il vicepresidente del liceo Socrate di Roma che dice basta mi ricorna a scuola, ragazzi, vogliamo giusto, dire qualcosa? Giusto, come giusto, giusto, giusto, giusto. Come giusto? Giusto. Perché altrimenti senza banchi, senza banchi i professori cade l'occhio. Sì, così. No, come non cade l'occhio, no. I professori. Sì. Si va col dress code, però. No, senti, a scuola senti, non si senti va sto bigotto. Senti certo sto bigotto. Cioè le donne anche gliel'ho detto, non si va a scuola. Si va vestiti bene, no con la minigonna. Minigonna che male ti ha fatto la minigonna? Ma questa è pazzo. Minigonna vai a una festa, minigonna. Ma te lo spiego io perché Parenzo è contrario alle minigonne. Abbiamo fatto il liceo insieme. Ecco, il liceo classico concetto marchesi. E Parenzo all'ultimo anno con le compagne in minigonna, in particolare con un paio ci provava e non c'era riuscito. Lenzi, se non sbaglio, ma adesso è inutile fare i nomi, ora c'è questa cosa. Si ammazzava di seghe. Si ammazzava cosa? Di seghe, Parenzo. Sta dicendo che ti ammazzavi di seghe a scuola. Malato, curati. Le occhiaie gli sono venute al liceo. Al liceo gli sono adesso ha parlato Alain Delon. Sta parlando. Però ragazzi, fermi tutti, al di là delle cose personali. Io dico ai miei figli, ho detto si va a scuola seriamente, vestiti bene. Ma tu sei pazzo. Cioè tu pensi che veramente una minigonna crei qualche problema? E chi se ne frega se poi il professore guarda un attimo a scuola. Succede a tutti di guardare. Ma non no, è il professore. Qual è il problema? Basta mia che non ci provi. Si va basta che non faccia il porco con una minorenne. Si va a scuola vestiti in modo adeguato. Ma che vuol dire? Adeguato. Perché la minigonna che cos'è? Inadeguato? Non la minigonna non è da scuola. Non è da scuola. Si va la gonna sotto il ginocchio come nei college inglesi. Ti avverto che il suscitato Adinolfi la pensa esattamente come te. Bravissima la vicepreside di un liceo di Roma. Allora aspetta che forse appunto, che sostiene che a scuola non si può andare con la minigonna. No, però sai dai, su, perché senza banchi ai professori cade l'occhio. A parte, no, fatto, quindi, a parte, no, che definisce tutti i professori dei mezzi porci, esatto, che guardano, no, questo, primo, è primo questo. Secondo, a scuola non si può andare con la minigonna. Ma però, dove cazzo sta scritto? Ma tu, voi, Davide, siete malati. Io dirò, Davide, a mia figlia, se se la sente, quando vorrà, di andare con la minigonna alla grandissima. Ma perché? Se se la sente, cioè, un consiglio, poi fa il cazzo che vuole. Riassumiamo, ma riassumiamo, come, perché? Nell'ultime, ma 24 voglio... ore, nelle ultime 24 ore David vota come Pappalardo, sì, e, esatto, la pensa, bravo, come Adinolfi, sì, eh? Sì, sì, sì. Io inizierei a preoccuparmi. Io vi querelo a tutti e due, ma che stai scherzando? È la realtà, però. Cruciani porto via tutto, a Gottardo non gli porto via niente perché non è niente, quindi non c'è nulla da portare. L'albergo gli porto via, l'albergo dove sta gli porto via. È già, allora, tutto di mia moglie. Fermi tutti, Mauro da Messina, iniziamo, dai Mauro, dimmi, Mauro. Mauro, mi senti? Ti sento, dimmi Mauro, dimmi. Ciao, niente, no, volevo soltanto con molta pacatezza, ma quanto gli sta bruciando il culo ai comunisti di merda? Stanno arrivando le elezioni e se la prendono nel culo. Quanto... Beh, l'altra sera. Sì, non facciamo previsioni su quello che può succedere, però insomma. Lo dico io, la prendono nel culo tutti perché sono uno più pezzo di merda degli altri. Beh, adesso, stanno al potere perché li tiene la Mattarella, perché li dovrebbe mandare a calci in culo a casa. Sono i più chiamati in culo negli ultimi anni in tutte le elezioni, pure quelle che aveva detto con pacatezza. Aveva detto con pacatezza, per fortuna. Allora, io non oso immaginare cosa sarebbe senza. L'altra sera abbiamo assistito a un signore che, sì, mi fa venire i brividi. Questo era magistrato, caro figlio, che gli ha detto a Salvini: guarda, ride come un... l'esponente di destra. Sì, è vero, guarda, sì, sì, guarda, sì, sì. Respira come l'esponente di destra. Vorrei dire, caro figlio, se mi senti, sì, caga come cagava Mussolini. Ma cosa dici questo? Ma come si permette, Mussolini, di uno dei più grandi scrittori italiani? Però è un po'... Ma come si permette? Come si permette? Come ti permetti? Come ti permetti? Se mi avesse detto una cosa di queste a me, gli avrei svitato la testa e gli avrei cagato dentro. Ferma. Perché lui come si permette di accostare uno che ride ai fascisti? Fermo un attimo. Uno come lui si permette, Mauro, di accostare Salvini a quelli che hanno massacrato a Willy. Fermo, hai capito? Fermo un attimo. Fermo un attimo. No, fermo un attimo. Innanzitutto si sente il rimbombo, cerca di mettere bene il telefono. Perché si sente in carcere? Perché in carcere si sente il rimbombo? È in carcere o in una grotta? Solo lì può stare. Solo lì può stare. È il tuo cervello. Il tuo cervello che non ha niente, e quindi si sente il vuoto. Si senta. Testa di cazzo comunista, te ne vai a fanculo, tu e tutti i clandestini di merda. Adesso cosa c'entrano i clandestini? Giorni. Siamo passati da Salvini ai clandestini. È vero che il collegamento è abbastanza facile. Siamo passati da caro figlio Salvini ai clandestini. Mi sembra di capire, caro Mauro, che tu i clandestini, ma anche gli omosessuali, non li ami molto, no? No, mi sembra... a me gli omosessuali non fanno né caldo né freddo, sono persone normalissime, non ho niente da dire. Io niente. Contro gli scrocconi che vengono qua, massacrano i vecchi, stuprano, spacciano droga, e il tutto... No, ma un giudice, il giudice, poi si mette il giudice. No, tu hai sempre lavorato, vero? E tu hai sempre lavorato, vero? Tu hai sempre io lavorato, mi sempre nel culo, a differenza tua lavoro. Ma anche eccola, hai sempre lavorato. Cazzo. Tu hai sempre lavorato, vero? Sempre lavorato. Eccolo qua, perfetto. Perfetto. Perfetto. E tu hai sempre lavorato. Sempre. Tu hai sempre lavorato, mi sembra di capire, no? Io sempre lavorato, sempre, io sempre. Hai dato posti di lavoro. Hai dato anche posti di lavoro, hai dato. Pensa a te. Cazzo, quindi. Sì, sì, sì, sì, sì. Se la fuga e lavora d'estate quando gli altri sono a mare. Scusami, che ne pensi di Gottardo, Mauro? Che ne pensi di Gottardo? Gottardo, lo sai che cos'ha? Che secondo me Gottardo, avendo il cazzo piccolo, lo sperma pure, non esce in grasso. Pure. In grasso. Se tu gli fai un'incisione immagine, nella pelle, che immagine c'è? Questa è la cura. Perché non riesce ad espellere lo sperma in grasso. Cioè, lei dice, è una riedizione della ritenzione idrica. Io la fermi tutti! Fermi tutti! Pazzesco, pazzesco. La zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da pallotto 00240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Grande Parenzo, sempre il solito lecca culo del cazzo e coi pareri sempre diversi. Il tipo che pippa è una vergogna incredibile di qua di là. Poi ci sono gli immigrati che si lavano le fontane, si lavano il culo alle fontane, pisciano in giro, cagano in giro. Ma quello è normale, brutta testa di cazzo. Vai a fare in culo, Parenzo, c'è la solita merda. In questa giornata è doveroso festeggiare un importantissimo anniversario. Esattamente un anno fa andava in onda la mitologica trasmissione Voce alla Gente con Enzo Spatalino. Vero. Ed ospite Maurone da Mantova, Vus, Cruciani e Parenzo. Siamo al top. Mi ricorda la notizia che Parenzo che è scopato le donne di Mauro da Mantova. Ma c'è Frocio? Vi prendete voi la responsabilità di quello che dice? Allora, so che è regolarmente sposato, allora, Parenzo che ha delle... Ma ci sono... Perché? Sì. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora. Imbecille! Tu sei un imbecille! Confrontati sui contenuti! Imbecille! Ma perché non ti confronti? Parla! Vedi? Io non ti voglio offendere, ma sei un imbecille, Parenzo. Un anno fa la trasmissione Spatalino Mauro da Mantova, il giorno dopo chiusa la trasmissione. Chiusa la trasmissione. È quello che dovrebbe accadere anche a questa trasmissione. Dovrebbe. Allora, voglio mandare un grande abbraccio a Enrico Vanzina, che sul web viene massacrato. Sì. Viene massacrato semplicemente per avere fatto il suo mestiere, cioè un film che ha come titolo Lockdown all'italiana, sì, con Ezio Greggio e altre persone. Certo. E Ricky Memphis. Altre persone. Sì. In cui si scherza sui mesi passati in lockdown, cosa assolutamente normale. Certo. Secondo alcuni imbecilli. Un film che nessuno ha visto ancora. Ma sì, deve ancora uscire. Allora, ma lasciamo. Il fatto stesso che uno possa fare un film, magari anche comico, sul lockdown, viene considerato uno sfregio alle vittime. Ma che cazzo state a dire? Ma che siete impazziti? Moralisti del cazzo, che vergogna, uno schifo, uno sfregio ai 35.000 morti, 36.000 morti. Ma cosa vuol dire? Uno non può fare un film scherzoso sul lockdown? Non penso che pigli per il culo le vittime, no? Ma che cazzo dite? Dai, su. Roba da matti, ragazzi. Roba da matti. Serena da Roma, vai, Serena. Forza Vanzina, Serena, dimmi. Eccomi, Cruciani. Dimmi Serena. Allora, io vi amo e vi ascolto da anni, ma secondo me se state vi siete andati tutti a fare un bagno nel mare dell'omofobia. Nel mare dell'omofobia addirittura. Tu sei... Sì. Ma guarda, tu sei gay, lesbica, come io si dice? Io lesbica, sì. Lesbica. Quanti anni hai? 33. 33, sei fidanzata? Sì. Da quanto tempo? Da un annetto e mezzo. Insomma, pensare che questa trasmissione sia omofoba è talmente ridicolo che non ti rispondo nemmeno. Cioè, in questa trasmissione vengono invitati e ospitati tutti. Ascolta, io sono a favore delle coppie gay, sono a favore del matrimonio, sono a favore addirittura dell'adozione. Sì, ma poi dici delle cazzate che non possono essere. Tipo quale? Che sono contro la legge. Certo che sono contro la legge che vuole condannare l'omofobia, perché non serve a un cazzo, serve solo a creare problemi e intasare i tribunali. Legge, Zanni, io sto dicendo un altro discorso. E quando tu dici in Italia i trans sono amati perché tutti gli italiani vanno a trans, te sei certo, sono amati, sono amati, sono amatissimi. Ma tu certo. Hai mai visto lavorare un trans in un posto normale? Sì, l'ho visto. Io l'ho visto in Parlamento un trans. Si chiama Vladimir Lussuria. Certo, tra l'altro è andato dal mio parrucchiere a Roma, non dirò il nome, però scusa, la mia era semplicemente ma è una cosa rarissima, la mia era transfobia. Se tu mi dici che tutti i trans sono amati in Italia perché la gente va trans, sei matto. Ma sì, perché in fondo è così. Se le persone che vanno a prostitute, vanno a trans, non possono odiare i trans, li amano perché servono, in quel caso servono sessualmente, un dout adesso non possono odiare i trans perché e siccome sono tanti gli italiani che vanno a trans, ne consegue che gli italiani non odiano i trans, non mi pare un ragionamento così. No, non è proprio così, ma comunque va bene, ma io darei lavoro, a me non me ne frega niente se uno è trans, io lo farei lavorare qui come assistente della zanzara un trans, senza problemi. Guarda, assumi qualcuno, che vuol dire che faccio le quote trans? Deve essere bravo, però amico mio. Hanno assunto pure a te, quindi va bene, vanno bene un po' tutti, perché pure te ne nonostante il mio peso giorni. io credo cara amica, che siano più discriminati i ciccioni come me che non i transessuali pure secondo me quindi dovete smetterla di rompermi i coglioni. È vero, allora, invece stai zitto, perché quando tu parli di quelli a cui, di quella coppia gay a cui hanno portato il piatto col pene disegnato, e hanno disegnato un cazzo, e hanno disegnato un cazzo, dici, non mi sembra niente di grave. Ma sì, a me si disegnano una vagina. Ma quando tu sei andato al ristorante, un cazzo e una figa disegnati, ma che cazzo dici? Ma magari con quel poco che mangio, che adesso sono a dieta, se mi disegnano una vagina, mi dispiace che è disegnata. Però, scusami, Serena, andiamo al punto fondamentale. Tu vivi male il fatto di essere lesbica? Non mi sembra che tu ti senti discriminata? No, io lo vivo benissimo, io sto tranquillissima col mondo, con la mia famiglia, con tutti. Però quando sento queste cose, io dico, tu sei completamente cambiato, perché sti ragionamenti prima non li facevi. Ma scusa, poi, a parte che non è vero, tanto, a parte che non è vero, è l'unico che si salva. Scusami un attimo. Buonasera, Serena, grazie per aver chiamato. Da quanto tempo è che tu non assaggi un pisello, diciamo, non provi un pisello, Serena? Ma guarda, prima, forse l'ultima volta, boh, 3-4 anni fa, nel senso che la figa di tanti, ma il cazzo piace a tutti, quindi non è che io lo disdegni. Cioè, tu non lo disdegni allora, cioè non sei lesbica, no, al 100%. No, però se mi devo fidanzare con un uomo non mi ci fidanzo, capito? Ma con la tua fidanzata non fate delle cose a tre pure? No. Cioè, la vedo più come Parenzo. Cioè il cazzo non vi piace in mezzo, messo in mezzo a... No, semmai me lo prendo per conto mio, ma quando sto da sola. Quando stai da sola, cioè quando non sei fidanzata, diciamo. Quando sei fidanzata resti fedele alla tua azienda di riferimento, che è quella femminile. E usate i dildo tra di voi o no? Cioè usate dei dildo sicuramente, sì, vibratori. Sì, lo vedi, sì, che sì, però c'è la mancanza, senti la mancanza di qualche cosa, cioè non ti basta... Ma perché tu non usi niente? No, ma io uso tantissime cose, che c'entra? Piccoli, grandi, quelli anali, come si chiama? Quelli I plug anali. I plug anali, eccetera, eccetera. Questo non c'è dubbio. Però allora pure a te manca qualcosa? No, ma quella è una cosa in più. Però voglio dire che due lesbiche che usano i vibratori è un controsenso, se ci pensate bene, no? Parenzo, no, Gottardo, seguitemi. Non lo so, è una conversazione. Quello che inserisci ti piace, quindi sì, quello però, che è. Però in realtà è un controsenso. Se una è lesbica, dovrebbe accontentarsi della figa, chiaro, perché devi aggiungere qualcosa in più? Se significa. Sei come i vegani che si fanno la bistecca di tofu, e allora vuol dire che ti manca la bistecca vera. Sì, ma da un certo punto di vista è vera. Come questa come i vegani. E quindi a te il plug anale a che ti serve? No, perché ti manca pure a te? No, però quello è uno sfizio in più. Quello è uno sfizio in più che uno può utilizzare. Perché poi comunque. Ma io non è che ogni volta che faccio qualcosa devo tirare fuori tutti. Però per una lesbica, in un rapporto lesbico, se uno usa un vibratore, cara Serena, è chiaramente una contraddizione. Mi pare evidente che sia una contraddizione. Dai, su. Tu ma sicure, io non la vedo così. Tu anzi, sicure lo strapon. Non lo so adesso, ma eterosessuali che lo usassero, quindi non è che tu usi pure lo strapon? L'ho usato, sì. L'ha usato con una donna, immagino, no? Sì, beh, vabbè, certo. Cara Serena, t'abbraccio, ciao. Evviva. Ciao. Grazie. Allora, ragazzi, mazza quante donne ho. Anna da Brescia, che credo sia una persona che ci ha chiamato nei giorni scorsi, due giorni fa, credo tre giorni fa, sostenendo di essere vergine a 30 anni. Anna, buonasera. Ma figurati. Anna. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, mi hai mandato, Anna, che cosa? Una specie di certificato, giusto? Sì. Un certificato fatto, io non ci ho creduto fino in fondo, poi ti ho sentito e un margine di credibilità c'è. Cosa c'è scritto in questo certificato? Che ti ha fatto un medico ginecologo. Certifica che sono vergine. Che cosa ha scritto esattamente, che non mi ricordo più. Non ce l'ho qua davanti. Se il ginecologo certifica che la signora Anna è virgo, tra parentesi, vergine. È virgo, questo mi ha lasciato un po' perplesso. Virgo. È virgo, la virgo Anna. O sarà la dicitura dei ginecologi. Virgo, eccolo qua. Dunque, alla cortezza attenzione della zanzara, sulla base della visita da me effettuata, si certifica che la signora Anna è virgo, leggi vergine. Cordiali saluti. 30 anni, vergine, crediamoci, come cazzo è possibile? No, io sono come San Tommaso finché Anna non viene nel lettone con me qui ad Abano a certificare la sua verginità, col cazzo che ci credo. Mamma, ma come vuoi certificarla? Scusa, pure tu, ma che sei? Certo, ma che vai? Devi guardarla negli occhi, la verginità. No, perché la verginità è uno status mentale, non è uno status fisico. Cioè tu dici, lei guardandola negli occhi, la più grande porca E però se la guardi negli occhi capisci se è porca. Una può essere porca anche. Scusami, ma come si fa a dire queste cose? Ma come si fa? Ma certo, magari ha preso 10 cazzi in bocca. Ma e come che si fa? È? Ma che roba che è? Ma che linguaggio è? Che ma perché? È? Perché? Perché? Perché? Perché? La finezza di Gottardo è sempre insuperabile. Un allora, animale. Fermi tutti, ragazzi. L'unico legittimato a essere volgare sono io. Allora, Anna, voglio capire una cosa. Sì. Come mai sei arrivata a questa roba qua? Te l'ho chiesto anche l'altra volta. 30 anni, motivi religiosi. Sì. Qual è il motivo vero? 30 anni vergine è una cosa folle, una cosa senza senso, una patologia vera, te lo posso dire. Cioè, magari Adinolfi è contenta, ma tu sei malata. Devi renderti conto che sono malata. Non ti rendi, cioè non sei consapevole di essere malata. Ma è possibile che sia malato il mondo intorno a me, non io, non per forza sono io quella sbagliata. Ma sì, ma che se mi frega, provano infatti. Le persone sbagliate con me, sono incontrato solo casi umani nella vita, cosa ci posso fare? Ma certo, poverina, ma avrà le sue ragioni, ma che ti non frega? È possibile che uno a 30 anni non ha pesi 100 kg, Anna? No, ho lavorato come modella, come hostess. No, come sono modella una bella ragazza in tutto ciò. Modella hostess, beh, bella ragazza. Secondo me è una persona allora molto sensibile. È una persona frigida, molto sensibile. Frigida, che le piace frigida scegliere la persona. Ma sarei tutto cazzo, Gottardo, guarda. Beh, capito io, però. Ma non ti è mai venuta voglia? Non ti è mai venuta voglia di scopare? Ma certo che potrebbe essermi venuta voglia, però non ho trovato l'occasione. Allora, fermola. Non hai trovato l'occasione. Sì, non c'è dubbio. Non hai trovato l'occasione, cosa vuol dire esattamente? Non ho trovato mai una persona che volesse fare l'amore con me invece che scoparmi. Ma nessuno ci ha mai provato esplicitamente. Sì, immagino, molte persone ci avranno provato in maniera esplicita, chiara. Molte persone. Sì, certo. Qualcuno certo ti piaceva di queste persone? Sì, diciamo di sì, però. Ma cazzo, uno ti piace, ci prova. Prova. Ma sono una persona alla quale dà fastidio essere usata. Cioè, io non mi faccio usare per una notte, non mi faccio buttare via. A meno che non lo voglia io. Sì, ma 30 anni, capisci? Cioè, tu avrai passato. Cioè, avrai cominciato a sentire qualche cosa, diciamo, a partire dai 16, 17, adesso io non lo so. Passare 13 anni senza una piccola penetrazione, l'inizio di una penetrazione è una roba folle, se ci pensi, o no? È folle per te, ma non è folle per me. Cioè, tu non senti nessun disagio. Fra un po' non la vuole più nessuno, devi anche approfittarne. Adesso questo è 30 anni, adesso non esageriamo. Io non ho capito, ma tu sei il primo che ne vuoi approfittare, Gottardo, vero? Sì, no, assolutamente, guarda, no, io non vorrò mai andare con una vergine in vita mia, perché le vergini sono, mi dicono i miei amici, non ho mai trovato una, imbranate. Io un'imbranata a letto non la voglio. Preferisco una gran porca piuttosto che una vergine. Cioè, vuoi farti fare la lezione, insomma, invece che darla? Non mi voglio fare una lezione, ma certamente è molto più carino avere un rapporto con una che sa dove girarsi e come farmi godere piuttosto che con una vergine. Questo che devo sono d'accordo con Gottardo. Però torniamo al caso Anna. E secondo me ci sono anche motivi religiosi dietro, però, Anna. Io non posso credere che non ci siano motivi religiosi. Cioè, sei una seguace di Adinolfi, che ne so, di padre Fanzaga, no, ascolti Radio Maria, no. Hai mai visto un film porno? No, mai. Vabbè, ragazzi, ma siamo qua a due patologie. Due patologie insieme. Ma vivi con Vergine, 30 anni, vivi Brescia, modella, hostess, bella ragazza che non ha mai preso un pisello. Ma ragazzi, non è possibile, non ha mai visto una scena su Pornhub. Dai, su, ma tu farai sesso anale a 50 anni se mai lo no, però farai. Scusate, ma senti, di una volgarità inaudita. State mettendo in imbarazzo questa simpatica ragazza che vi ha candidamente messo a parte. Messo a parte. No, ma la state umiliando. In realtà lei ha espresso in modo molto semplice. Ti stanno umiliando in modo selvaggio. Tu sei con grande stile, stai respingendo gli attacchi di questi due animali. In realtà lei mostra una sensibilità superiore alle altre. Ma tu vorresti incontrare qualcuno? Che tipo di persona vorresti incontrare? Aspetta, lo chiedo fra poco. Aspetta ricco, un attimo. Aspetta un attimo. Chi te l'ha detto? Fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, sono un istruttore di equitazione e confermo, le donne che vanno a cavallo generalmente sono delle grandissime maiale. Ciao, ma dove cazzo vivi? Parli sempre di figa, ti piace parlare della figa, squirting, scambi, culi. Ma non ci capisci proprio un cazzo, ha ragione il Gottardo, come quasi sempre accade. A chi piace fare equitazione, quasi sempre sono delle troie di livelli disumani, da sempre. è un sillogismo che funziona il 99% delle volte. Vai Gottardone, godo che sei tornato, mi mancavi un sacco. Sono stupito dal fatto che molti ascoltatori danno ragione a Gottardo su questa storia. Sì, qua. No, sono, è incredibile. Sono esterefatto su questa generalizzazione assoluta delle donne che fanno equitazione uguale porca, incredibile, incredibile. Allora, no, non è così, non è così. Le più grandi maiale che ho conosciuto facevano quasi tutte equitazione. Ma chi hai conosciuto? Ma chi? Ma di che parli? Ma è una fiction. Allora ragazzi, abbiamo sempre Anna da Brescia, però prima voglio farvi ascoltare una cosa eccezionale che circola già da ieri. Uno scherzo fatto da un ascoltatore qualunque, cioè da un tifoso, diciamo, al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Allora la storia è questa: la Roma compra un giocatore che voleva la Lazio, un tale che si chiama Cumbulla, una storia di calcio che non interessa. Ma sentiamo la cosa straordinaria, soprattutto il fatto che Lotito risponde al telefono a un tifoso qualunque e lo prende a parolacce, diciamo, lo insulta un po' per... Senti. Buonasera presidente Lotito, ma Cambullà che ci faceva schifo a noi? Ancora, ma c'è cazzo da cazzo, la chiamo da dia Peperones, ma a noi ci faceva schifo, me lo dica lei. Metti i soldi se ce l'hai, no, che cazzo... Se ce lo diceva facevamo una colletta. Una colletta, metteci pure tu moglie, vai, tu sorella. Va bene. È sotto da incazzato. Io lo trovo straordinario, ragazzi. Lo trovo straordinario che risponda al telefono. Sì, e si incazzi con uno qualsiasi, con una persona qualsiasi, non è che lo chiama una radio o qualcun altro. Altra cosa straordinaria, il nuovo litigio tanti anni dopo, D'Agostino Briatore, anzi D'Agostino Sgarbi sul virus. Sgarbi, diciamo tra virgolette, negazionista, e D'Agostino invece un po' terrorizzato dal Covid, molto prudente. Prima Dago se la prende con Briatore, senti. Si tratta di una malattia evidentemente che non è che serve soltanto i ricchi per proteggerli rispetto ai poveri, perché che ci siano oggi 4 o 5 morti è un dato che ti pone in una posizione non di particolare dramma. Io ieri ho ricevuto la televisione svedese che ha avuto meno morti la Svezia di noi e non ha tutte le misure di sicurezza che noi vogliamo. Questo era Sgarbi, D'Agostino contro Briatore, vai. Flavio Briatore che dice non è stata così pesante. Veramente lì bisogna avere un attimo che riesca a collegare le sinapsi, perché quello del ballo, delle discoteche, questa è stata veramente una tragedia di idioti. Adesso che lo dice il tuo amico Dago, no, che ha ragione, non gli dici nulla. Sono contrario. Invece D'Agostino ha perfettamente ragione. No, ha torto, e invece ha torto qui sta zitto e non gli dici nulla. Perché è il tuo amico e non gli dici nulla. Ma gli dico che è una cazzata. E invece gli devi dire ha perfettamente ragione D'Agostino. Ma quale tragedia di idioti? La gente ha diritto a divertirsi, non rompere i coglioni, dai su, ma non dire cazzate. Bravissimo D'Agostino, certo. Dai su, va. Ormai 6 mesi che io vengo intervistato solo su coronavirus, vorrei non parlarne più, vorrei pensare a Manzoni, vorrei pensare a Cesare Pavese, vorrei pensare a tante cose. E non stai parlando tu, caro D'Agostino, che io stai non so, benissimo, non so come parlare sta bene queste Briatore, cose. Come sta bene qui, come sta bene Chiambrecchi, come sta bene Porro, quindi abbiamo molti casi, e non sai che tu cerchi di contrastare, la mascherina te la devi mettere nel cervello. Te la devi mettere. Io anche il sedere va metto. Questo però abuso di terrorismo che è la una misura violenta che è un contro i cittadini. Scherzare, ricchi o poveri. Qui si tratta della vita. E mantenere le distanze. Stai scherzando tu. Ognuno piccolo terrorista può fare con la sua vita. Però non puoi parlare in quella maniera lì. Allora in Svezia sono idioti. Vai a Bergamo a dire quelle cose. Vai. Revelli. Ma vado anche a Bergamo, dove l'epidemia fortunatamente è calata. Vai a Bergamo, certo non vado a Matera, in Basilicata, vado, ma smettili le idiozie, scemo. Adesso Vittorio, però ci sono 35.000 morti, dai, un po' di pietà. Vittorio, sì, pietà, ecco, per ci vuole. Ma quali 35.000? Ma come li hai misurati? Non hanno fatto le misurati. Lo sanno anche le pietre. 35.000, cosa vuol dire? Oltre 35.000, dai. Non siamo un paesino fuori, siamo l'Italia, la grande Italia. paese a ricco, livello politico, no, paese non è Grande Italia. A livello siamo politico più ricchi della Germania. Tra abbiamo un risparmio privato più ricco della Germania. Ma c'è la retorica che noi dobbiamo aspettare l'elemosina dall'Europa. E tu dici delle stronzate totali. Non è un potere esterno l'Europa. No, non è un potere diverso. Siamo noi. Purtroppo è mancato lo schiaffo, non credo che fossero in l'acqua tirata addosso e lo schiaffo. Come da Giuliano Ferrara? Esatto, purtroppo durante è mancato questo, ma non erano, ma erano in collegamento. Eravamo con Anna da Brescia, vergine a 30 anni. Io ancora non ci posso credere, veramente non ci posso credere, perché per carità rispetto questa decisione, cioè rispetto, ognuno fa quello che vuole del suo corpo, del proprio corpo. Però mi pare impossibile, se uno ha voglia lo fa anche... dovesse farlo anche non con la persona che, ma lo fai Anna, fallo, punto e basta, fallo, candida, se vuoi ti troviamo qualcuno, facciamo un grande referendum, facciamo una grande ti sottopongo delle persone, non lo so, dimmi quello che posso fare, dai, facciamo un referendum, cioè un referendum, ti cerco per rimanere in tema, no? No, ma una piattaforma Rousseau, piattaforma Rousseau della verginità. Qual è il tuo tipo ideale, cioè che cosa ti manca, questo è il punto. In che senso, cosa mi manca? Cioè, che cosa? Mi manca la profondità, la profondità, amico mio, ma la profondità. Ragazzi, non lascia... troppo, è facile la battuta. Mi manca la profondità, ma no? Ma cosa vuol dire la profondità? Ma cosa vuol dire la profondità? Non ho capito. Non è che per scopare devi trovare per forza una persona profonda. Una scopata è una scopata, amica mia, dai, su, un pesello che è un quarto d'ora di scambio di scambio di liquidi, dai. Ma che razza di poesia c'è, ma ragazzi? Nessuna poesia me l'ha scopata. Quanto vi ha reso aridi la vita? Ma parliamone. Ma non ci ha reso aridi, sappiamo distinguere. Molte donne. Io ho amato molte donne che non ho scopato. E ho scopato molte donne che non ho amato. La vita è sulle morte. Hai amato molte donne che non hai scopato? Molte, molte si può discutere. Vabbè, ho capito. Voi sapete la contabilità del vostro uccello. Se Parenzo avesse scopato molte donne, gli italiani farebbero 200 milioni. Peraltro, con il tasso di realizzazione che ha. Ma figurati. Ciao Anna, ciao. Ciao. Antonella da Palermo, vai Antonella da Palermo, vi annuncio tra pochissimo il grande ritorno, un grande ritorno, Rolando Poeta, ascolti Poeta e poi te ne vai, ascolti, intervieni con Rolando Poeta su vari temi che riguardano il sesso, ma non mi interessa a me Rolando Poeta, ti deve interessare, poi te ne vai ai tuoi capodanni al 5.000 no, rotti, 5.781 Antonella da Palermo, vai. Dalla creazione del mondo, dalla creazione del mondo, Antonella da Palermo, vai, dalla. Dimmi, Antonella, dimmi. Ok. Allora, in realtà io avevo chiamato ieri perché volevo intervenire in trasmissione, perché c'era questa illustre ospite che tu avevi invitato e via discorrendo. Io sinceramente mi sono indignata tantissimo. Ma perché cosa? Chi era l'ospite? Cosa ha detto? Perché ti sei indignata? Quella donna che tu hai presentato come una gran figlia che aveva l'altro. Sì, è stata due copertine di Playboy, insomma, brutta non era. Ma per carità, ma io dico, noi sei invidiosa, non ho capito. Non la vediamo, no, assolutamente no. Guarda, e allora che cos'è che ti ha indignato? Il fatto che fosse negazionista, cosa ti ha indignato? Ascolta, negazionista, sì. C'è vero di gallina, io mi chiedo, mi sono posta una domanda, che ti voglio fare, Cruciani? Qual è, perché a un certo punto io ti voglio chiedere, ma tu ti rendi conto del livello in cui è arrivata questa trasmissione? E fico una risposta, perché ma in che senso, scusa, non ha ragione. Ma in che senso? Non ho capito a che punto è arrivata questa trasmissione. Il livello culturale di questa trasmissione è sceso tantissimo. Ha ragione. Il livello culturale. Donna, ma io metto mano, come diceva un signore, metto mano alla pistola. Che non era un democratico. Quando sento la parola cultura, metto mano alla pistola, come diceva un signore. Dai, non era esattamente democratico. No, questo non era esattamente. Mi permette di dire che non c'è il Covid, non c'è Covid, non c'è questo. Ma gli argomenti a supporto dove sono? Li ha portati? Tu li hai detto? Gli argomenti a supporto. A parte che non si sente un cazzo, Antonella, non so da dove sei collegata, che viva voce hai, che auricolare hai. Non ho viva voce, sono. Guarda, voce, a me degli argomenti a supporto non me ne frega una mazza, posso dirti una cosa. Ho capito, ma noi ascoltiamo. Il livello culturale, quello ognuno giudica il livello culturale da per carità, tu. No, ascoltiamo, noi ascoltiamo e valutiamo. Io ho valutato in questo modo. Ma cosa hai valutato? Chiedo, cose... Ma valuta, dai, tu non puoi invitare questa gente così. Io non e come non la devo so, invitare? Io, col tipo... bollino, col certificato di Antonella da Palermo? Con il, no, con il placet anche, di Antonella da Palermo? Con... Ma con il blush di tutti quelli che ti ascoltano. Ma sei invidiosa perché era un pezzo di figa, questo no, il punto. No, assolutamente. Ma io neanche l'ho vista, quindi sicura. Vabbè, Antonella, io cosa vuoi? Non ho capito. Il livello culturale è basso. Mi vanto, mi vanto del fatto. È una medaglia. Il fatto che dici che il livello culturale di questa trasmissione è sceso è una medaglia per me. È una medaglia. È una medaglia, ascolta. Sì, una medaglia. Non continui a parlarmi addosso, ma io parlo lo stesso. Tu sei circondato, secondo me, da persone che non ti sanno consigliare. Come vabbè, Walter da Milano, vai, Walter da Milano, vai. Ma veramente, se fosse allora, per Parenzo, volevo, Walter da Milano. Io volevo intervenire relativamente al tunisino. Secondo me, al netto di ogni implicazione sociologica, questo si è trovato. La televisione a colori, un piatto di minestra e un tetto sulla testa. Allora? Finito. E allora l'ha fatto per quello. Non l'ha fatto perché pensava di perdere tutto, pensava di perdere questo, di essere rimpatriato. A un certo punto, ma poi non lo sappiamo esattamente, perché quando uno accoltella un prete in quel modo, le vere ragioni non le sapremo mai. Comunque, sottolineiamo, tunisino, irregolare senza permesso di soggiorno. Qual è il punto? Qua bisogna dirlo, ma non bisogna... Ma come non dire, cambia la sostanza non dei fatti. Cioè, e tu lo metti ma come non i giornaloni, è un elemento no? Come i giornaloni. No, ma quali giornaloni? Io non lo metto niente. Ma questo dorme sotto. Vabbè, ciao Walter, ciao. Colui che ha affermato che il sesso anale porta alle carie. Mamma mia. Rolando Poeta. Richiamiamo. Pronto? Poeta? Sì, chi parla? Grande Vate, sono Cruciani, come stai? Ciao. Come dimmi stai? Tutto. Ma sei diventato? Bene, bene. Ma lo sai che sei diventato ormai il Vate? Confermiamo questa cosa perché la cosa è molto discussa. Cioè, la vogliamo confermare una volta per tutte. Mi hanno chiamato, hanno mandato delle mail, hanno mandato dei messaggi. Prenderlo in quel posto può portare a delle carie gravi. Lo vogliamo confermare, sì o no? Sì, assolutamente. Come assolutamente. So. Benissimo. Cioè, l'inserimento di cose dentro l'ano. Sì. Porta inevitabilmente ai denti cariati. Sì, come dire, l'ano non si deve rilassare, ad esempio più eloquente, no? Sì, qual è? È quello dei denti da latte dei bambini. Cioè? Cioè tu sai che c'è la dentizione da latte, no? Cioè che sì, i bambini che a un certo punto perdono tutti i denti. Perché? Sì, sì. Perché i primi denti che loro possiedono, sì, quando hanno un anno, due anni, tre anni, sì, sì, sono denti che possiedono mentre loro, questi bambini, sì, hanno soltanto femminilità. Infatti ciucciano il capezzolo della moglie, ciucciano le dita, sì, ciucciano il biberò, sono solo femminili, sì, e mentre sono femminili e agiscono ciucciandosi il biberò, ciucciandosi le dita, sì, ciucciando qua e là, in realtà il loro ano è soggetto a rilassarsi, ed è per questo che dopo anni di rilassamento che subiscono questi bambini, sì, alla fine perdono tutti i denti. Chi si masturba tanto o chi pratica la masturbazione in modo come lo inquadriamo? Cioè... Lo inquadriamo con uno che non è capace di scopare normalmente, capito? Cioè, può scopare soltanto con le sue mani, ecco, la sua sessualità la trova, può esprimere, sì, solo in situazioni ambientali ipodeboli, che sono quelle ipodeboli, in cui, scusami, che sono quelle in cui l'individuo è libero, e l'individuo è libero, sì, soltanto quando è solo con se stesso, e allora lì si sente super macio. Ma basta che va con una donna che gli dice allora, sì, ancora devi arrivare, ancora ti si indrizza, ma che è tutto lì, cioè, allora queste situazioni lo obbligano, sì, a fare qualcosa, sì, e questo obbligare gli toglie le libertà. Che se lui in quelle situazioni ha il naso a destra, ci va a nozze e se la scopa alla grande, invece, se lui invece in quelle situazioni ha il naso inclinato a sinistra, finito, non gli si raddrizza. Hai benissimo, capito? Dunque, un uomo, come aspetta, è interessante questo qua. Dunque, un uomo che ha il naso verso sinistra, sempre guardando dalla sua prospettiva, è uno che alla propria sinistra non gli si addrizza, è uno che ha problemi, diciamo. Sì. E invece uno che ha il naso che vira verso destra gli si addrizza. Facciamo finta a un Clinton che si doveva fare il pompino dalla sua stagista. Sì, perché si faceva fare il pompino? Perché è un impotente. Perché Clinton, se guardi il suo naso, no? Se tu guardi il naso di Clinton, aspetta. Dove ti senti? Sì, ti sento. Se tu guardi il naso di Clinton, lo vedi che è tutto a sinistra e il maschio, cioè alla punta del naso a destra. Arriviamo alla conclusione. L'altra volta abbiamo parlato della donna puttana, ok? Della donna puttana che ha l'inclinazione del naso a sinistra dalla sua prospettiva. La donna puttana, la donna che si concede, eccetera, eccetera. L'uomo con l'inclinazione del naso della parte alta verso sinistra, come lo inquadriamo invece? Lo inquadriamo nello stesso modo, cioè l'uomo in quelle condizioni non riesce, è un uomo che quando è costretto a essere maschio non ce la fa, un mezzo impotente, insomma, l'uomo che scopa che non gli si raddrizza il cazzo, che non gli si raddrizza il pisello, si riconosce dalla sua prospettiva col naso verso sinistra o verso destra? Il naso è a sinistra. Il naso... Allora, intanto per cominciare, per non evitare equivoci, quando io dico destra e sinistra, si intende la destra e la sinistra dell'individuo. Sì, cioè, certo, la destra e la sinistra dell'individuo che tu stai osservando, capito? Che è il contrario di te che la guardi. Sì, non c'è dubbio, dalla prospettiva dell'individuo, non c'è dubbio. Vabbè, benissimo, io direi che potremmo passare anche al cunnilingus. Potremmo passare anche al cunnilingus. Ma lui come è arrivato a queste conoscenze? Qual è il suo percorso? Ma è il poeta, è uno scienziato. Come è arrivato a queste conclusioni, sto squinternato qui? Come è arrivato lei? Avrà il naso a sinistra il poeta, probabilmente, a sentirlo parlare. Poeta, lei come ce l'ha il naso, poeta? Io ho il naso a destra. In tutti gli ambienti per forti e forti, e soltanto negli ambienti deboli ho una pallotta, cioè un naso non affilato. La pallotta in testa c'ha lei, altro che... Non affilato, ma spianato, che in pratica consente in questi ambienti deboli sia la maschilità che la femminilità. Io sono di piccola statura, e sono di piccola statura perché io, anche quando sono in situazioni difficili a confronto dei forti, mi sento forte, mi sento in grado di dominarle. E per le donne, tu tieni presente che io, quando a un certo punto mi sono separato da mia moglie dopo 18 anni di matrimonio, anche mi ha lasciato lei. Ti credo. Ero libero e praticamente in quegli anni di libertà mi sono scopato praticamente tutte le puttane della bergamasca e i dintorni, come si dice. Che merito è? Ma pagando, pagando poeta. Al punto tale che una di queste puttane, praticamente la preferita, per così dire, addirittura ci ho vissuto molti anni. Cioè, tu hai vissuto con una puttana? Sì. Un rapporto, perché era una ragazza, una strafica, parliamoci chiaro, l'ho conosciuta quando aveva 16 anni, che era una cosa favolosa. Quando ho trovato la possibilità di risparmiare soldi, me l'ho portata a casa, capito? Pedofilo, vergogna. I carabinieri all'ascolto potrebbero fare un'indagine nei confronti di questa persona per vedere se c'è la fedina penale a destra o a sinistra. A 16 anni ci sei stato, amico mio. A 16 anni l'hai portata via. Lei è uno sporcaccione, è un maiale del cazzo, dai. Si vergogna. Non lo so, io quando vedevi, aspetta qui, quando la trovavo per la strada che ti prostituiva, non gli stava a chiedere cazzo, era una figa, una bella figa. Ma si vergogna, una ragazzina di 16 anni. Ma si vergogni, se fosse stata sua nipote o sua figlia. Non mi stavo a porre queste domande, perché è un uomo delle caverne. Esatto, siccome è un uomo delle caverne, le sue teorie risalgono all'uomo delle caverne. Scusa, come hai fatto a sapere che c'aveva 16 anni? A un certo punto ti ho detto che c'aveva 16 anni. Questa donna, questa ragazza poi l'ho frequentata per i 20-30 anni e tuttora la frequento, quindi di conseguenza dopo ho saputo che ha tutta la sua storia, ha conosciuto addirittura i suoi genitori, quasi una relazione affettiva. Pensi mamma e papà, sapete, mamma e papà, io facevo la puttana in strada, poi è arrivato il signor poeta, ecco il signor poeta che siccome mi ha detto che c'ho il naso a sinistra, io faccio la puttana per quello da quando avevo l'età di 16 anni. Io se fossi il papà di quella ragazzina le avrei incroccato tutte e due le ginocchia con il crick del camion, sai? Stammi a dire, il papà di questa ragazza era venuta a casa mia proprio da un lato implorandomi, come dire, di non dargli i soldi, perché sennò si drogava con i soldi, capisci? Io ho cercato di aiutarlo al padre, cioè andargli incontro, capisci? Però la ragazza non era d'accordo, dai, tanto che certo. Non gli dava più soldi, e quindi lei? E quindi lei nel dubbio la scopava, la scopava dandogli i soldi, nel dubbio. Un maiale, vero? Uno schifoso. Per aiutarla? 50 euro a marchetta, così, per aiutarla. Ma no, guarda, ascolta, io a questa ragazza gli ho dato tanti di quei soldi che tu manco immagini, per comprarsi la droga, per rifarci una vita. Dai, ragazzi. Ciao, il poeta, Salvatore. Ti saluto, poeta. Ciao, grazie di tutto comunque. Ciao. Grazie, uno squallone. La zanzara. Oh! Ciao, mi sono appena laureato con l'Ode in economia e commercio magistrale e anch'io adoro sputare e farmi sputare in bocca dalla mia compagna. I love my radio. E voto Carlo Calenda con Azione. Dai! E cosa ne pensiamo di chi si incula le galline? Ciao Gottardo, sono Matteo da Varese. Qualche anno fa ho avuto una storia con una ragazza che faceva equitazione e ti posso confermare che ha detto sono veramente delle porche tremende. Devo dire basta con queste conferme che arrivano di continuo. Basta. Come diceva Cartesio, more geometrico dimostrato. Ma non è geometrico. Quattro ascoltatori che dicono la stessa cosa. Non è dimostrato un è cazzo. È la punta dell'iceberg di uomini che sono andati a cavallo non perché gli piaceva il cavallo, ma perché gli piacevano le maiale. Ma ho capito, ma non è una cosa matematica che tutte quelle che vanno è matematico. Tutte le maiale che io ho conosciuto, le vere maiale professioniste, sì, tutte quante equitazione, tutte. Allora ragazzi, però è il momento prima che quello se ne vada per il Capodanno ebraico, quello che non so dove è, come al solito è in pausa piscio, 5.500 euro. Sì, pausa piscio. È il momento di presentarvi un personaggio incredibile. Fino adesso non l'abbiamo fatto, non dico per carità di patria, perché secondo me in realtà è il numero uno. Lo stanno attaccando semplicemente per un motivo, perché sono stati diffusi degli audio che sono delle conversazioni di questo signore, che è un candidato leghista alla Regione Marche, ma anche un candidato a Fermo, che si chiama Luciano Romanella. Un signore che dice delle cose abbastanza ovvie, questo signore, solo che sono stati diffusi degli audio, delle conversazioni private con un suo amico. Ovviamente lui ha detto che è un attacco politico. È il personaggio del giorno, questo candidato leghista a Fermo nelle Marche, che parla in dialetto molto stretto, che dica se... coincidenza della Lega, non è né di più Europa né del PD. Ho capito, ma sono più ruspanti quei candidati lì. È evidente che sono più ruspanti. Certo. Allora, per me, dice questo qua: per me votano ivoriani, ex puttane, romeni. Una ciurma mi farà vincere. Partiamo. Non me la fastidio nessuno, modestia a parte, perché l'elettorato mio è inavvicinabile, capisci? Non è che io te lo va a pigliare. Me, io ho il 50% rumeni, domani sera sono invitato a cena agli ivoriani che votano di 3 archi e 39 voti matematici, cioè tutta una ciurma che non me la voleva manco rubare 3 denno, capisci? Quella ciurma lì, le troie dei 3 archi, le vecchie troie di una volta che non vanno più le puttane, Pinella, queste che mi riporta là, c'ho tutto un giro lì intorno al paradise, capisci? Tutta questa roba lì a me non me la leva nessuno. Non siete, voleva un voto, un parente, ma non è quello. La cosa straordinaria è capire chi è Pinella dei Tre Archi. Ma io dico una cosa, dice una cosa normalissima questo, a parte che è una conversazione privata tra amici, viene attaccato per il linguaggio perché parla di puttane. Ma che cosa fa quando sei al telefono con gli amici? Cosa dici? Ma questo qua è il numero uno, va difeso a spada tratta. Poi a un certo punto, ma va difeso a tu. Va difeso. Aspetta un attimo, senti. Sono dovuto mettere con la Lega, perché se prendiamo la regione, io comando Fermo, lo capisci dall'opposizione. Se il centrodestra via la regione, la Lega è il primo partito, io divento il punto di riferimento, ci vuol ragionarci con le cose, c'è lui. Ecco perché mi dovete dare una mano anche a voto disgiunto, perché la gente deve capire che se il centrodestra abbia la ragione, io combanno fermo con i soldi, perché i soldi sta in ragione, io divento il punto di riferimento fra l'amministrazione fermana e la regione. Lo capisci, di che la sono fatto, faglielo capire. Allora, la realtà, abbiamo bipato naturalmente un'imprecazione barra una bestemmia, però il problema fondamentale dopo, è questo. Dopo parlano dell'islamizzazione, sì, ma dice una attimo, fermola, dice una cosa abbastanza ovvia, fa un ragionamento politico che fanno tutti: se il centrodestra prende le Marche, lui diventa un uomo di punta, fermo, ma qual è il punto? Ma io lo difendo questo, lasciamo perdere le conversazioni private che sono piene di imprecazioni, eccetera, eccetera. Ma la realtà è un'altra, il punto fondamentale è uno, c'è una conversazione che abbiamo bippato molto in cui lui parla di una di 50 anni da cui si fa fare, beh, amico mio, beh, 50 anni, beh, senti, ottima età. Lui sta un problema, il problema ci sta, c'è lui, sta un problema grosso, perché non si sa se ci arrivo alle elezioni. Perché non si sa? Non sono trovato una cinquantenne buttare ma una cinquantenne maiala? Porca, certi buchi, uno lui o uno, già sta con sette. Ah, c'è moro, porca c'è moro, c'è moro, uno lo iono, sì, tu muoio certi sforzi per smorare, porca mi sei incartecate le gambe l'altro giorno, mi ha pigliato un grampo, porca un crampo. Allora, questo qua ogni giorno praticamente si fa lavorare da una cinquantenne che io lo chiamerei, vai, chiamiamo. Numero uno. Luciano? Oh. Sono Cruciani, Radio 24, come stai? Bene, come sto? Amico mio, ma che è successo? T'hanno voluto fregare? Vabbè, questo è normale, si capisce, no? Ma voglio ho capito, dire... ma chi è che ha diffuso ste cose? Cioè, chi... Allora, mo ti spiego come sei, un attimo di tempo. Partiamo da un presupposto, che stavo analizzando con un mio amico la situazione politica a Fermo, stavamo in campagna elettorale, no? Gli dicevo a questo amico, dico, a Fermo, io ho un record, ho sempre fatto primo su tutti. Sì, di preferenza. Su tutti, destra, sinistra. Io mi sono candidato con la Lega, perché essendo di destra, a Fermo non c'era nessun punto di riferimento che rappresentava la destra dei comunali. Ma questo va bene, d'accordo. Però mi sono messo lì, quando a questo amico gli ho detto, chi mi dà i voti? Ecco, chi ti dà i voti? In un quartiere, soprattutto dove io sono conosciuto da oltre 20 anni, in quel quartiere ci sono gli ivoriani, perché ci sono, chi sono gli ivoriani? Ma come mai un ivoriano dovrebbe votare uno dalla Lega? L'ivoriano che vota, quindi ha acquisito la cittadinanza italiana, conosceva Luciano Romanella nel 2004, quando non era italiano, e già collaborava con me, gli invitavo alle varie manifestazioni. E le troie? Le troie non ho detto troie, ho detto che ci sono. Come no? Ma come no? Ex, ho detto. Ah, ex, sì, ex. Le troie dei tre archi, quelle che non fanno più il mestiere. Le ex, e come le conosciute? Fanno... perché ma va benissimo. Uno quando fa campagna elettorale. Vivono lì, non come le conosciute, vivono lì, io frequento il quartiere, le conosco. Quelle non hanno diritto al voto? Che ne è, ma tutte. Certo, ma a me lo dici. Ma figuriamoci. No, Romanè, però c'è anche un altro audio, no, amico scusa, mio. C'è anche un altro audio. Quale? Quello? Quello a quell'amico mio che gli ho detto sto con una cinquantenne c'ho paura. Allora quello è un audio privato, un amico gli dico, sai qual è il problema? Ma perché l'ha messo in giro sto audio? Ah, bene, adesso arriviamo al dunque. Perché questo mio amico, proprio per mettere in giro con quell'audio lì che voleva fare, l'ha mandato a un suo amico. Ma tu sei sposato? Dice, tu sei sposato? Ma sì, ma io ho 70 anni, amico mio. C'hai 70 anni, ma è vero che ogni giorno ti fai fare la pompa da una? Quando parli con l'amico, no? Ma va bene, ma ho capito, sarà vero, hai detto non ci arrivo alle elezioni, memoro. Ma è una battuta da fare, no? Tu gli dici, concerni il personaggio, guarda, ma quando uno parla con un amico dice sempre la verità, cioè, ma guarda che non ti devi vergognare. No, è un'enfasi, quando parli. Ma sarà vero, tu, bisogna... Quante volte hai parlato tu con un amico? E infatti, certo, ma dico la verità. Ma dico la verità. Gli dici, senti, quasi stasera lo piano il culo. Che significa? Stai frocio? Ma che vuol dire? Ma sarà la verità, però, Lucia, sarà la verità, ma non è un'accusa questa roba qua. Ma la verità è impazzita. Aspetta, leva il viva voce. Ne è tre, no? Non è sette. Tu infatti, io 5, me ne sono fatte 5, come si dice il promuovere? Ho capito, però quella cosa lì era abbastanza realistica, cioè tu che... Parlava di un crampo. Ogni giorno che là stai lì col crampo, eccetera, che non ci arrivi... È una battuta. dimmi che esiste questa cinquantenne, ti ripeto, confermami che esiste. A parte le bestemmie, lasciamo perdere le bestemmie, che vabbè. Quella che significa? È una bestemmia tecnica che colorisce il linguaggio. Vabbè, però sono bestemmie, c'è poco da fare. Cioè, così. Vabbè, allora io lo faccio con privato. Ma infatti, è il problema. Ma nessuno, ma chi dice che è un problema? Nessuno lo dice. Ma per me sei il numero uno. Ma che ti devo dire? Sei il numero uno, uno che si fa la pompa ogni giorno e ha 70 anni con una che è una, evidentemente una grande pompinara. Diciamo la verità, è il numero uno, o no? Speriamo. Che ti devo dire? Ma mi raccomando, stai tranquillo. Da qui, tanto ormai è finita la campagna elettorale. Ma com'è questa qua? È buona questa, almeno 50 anni? Adesso, quando vieni giù, te la faccio conoscere. Come? Io dico, ma come mai non chiede scusa? Ma perché non chiede scusa invece di dire queste porcherie? Si vergogna, ha detto delle porcherie inenarrabili. Lei ambisce ad avere un ruolo pubblico. Ma che chiude la telefonata? Ma lei vuole solo persone che la adulano, scusi, ma che roba è? Lei si candida ad avere un ruolo pubblico ed è uno zozzone. Ma che c'entra? Erano cose private. È uno zozzone. Ma erano cose private ed quelle. È uno zozzone, posso dire che è uno zozzone, posso come pensi, viene fuori che è uno zozzone. Ma che perché? Ma erano telefonate private, perché WhatsApp privati. Viene fuori che è il quadro che ne viene fuori. Scusami amico mio, ma tu non ti vuoi inchiappettare chi ha diffuso questi audio? Adesso, finite le elezioni, valuteremo quello che c'è da fare sotto l'aspetto legale. Ma comunque noi li possiamo mettere in onda perché ormai sono pubblici. Per cui... sì, lo so, per carità. Che te devo dire? Lo so. È una trappola che ci sta, insomma. Vabbè, comunque noi abbiamo la tua autorizzazione come diritto di cronaca, diciamo. Girano, quindi il problema è chi la fa girare, non siete voi. Io le faccio un grande augurio, amico mio, che finite le elezioni, continuino le erezioni. Sì, questo è vero. Speriamo, senti che serve. Ciao. Ciao amico mio. Mamma mia ragazzi, mamma mia, cosa si usa in campagna elettorale, pure degli audio in cui uno va con una cinquantenne, in cui dice sostanzialmente che lo voteranno gli ivoriani, le ex prostitute e i romeni. Ma quello è normale, la campagna elettorale, quando tu parli al telefono con qualcuno in campagna elettorale dici un sacco di cose che magari sono sconvenienti, no? Sì, me votano quelli, sì, certo. Me votano gli altri, c'ho il pacchetto di voti di qui, il pacchetto di voti di lì, prendi 40 di là, prendi 30 di là, vabbè la cinquantenne, ma qual è il problema, dai su, cioè sono cose, ne abbiamo dette di tutti i colori in privato, dai su, di che parliamo, sì, ragazzi. Allora devo dire una cosa, David Parenzo nei giorni scorsi, adesso è andato via per il Capodanno, sbagliando ha espresso, questa è una cosa seria, sbagliando ha espresso un'intenzione di voto per il prossimo referendum, ce ne scusiamo naturalmente perché è una cosa che non si potrebbe fare. Chiedo scusa, pubblicità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Visto e considerato che la disfida fra le due Simone si giocherà sul grandissimo binomio, la dicotomia archetipica fra Risucchio e Ingoio, che ho, diciamo così, buttato io sul tavolo, mi sembrerebbe giusto che Novello Paride venisse chiamato perlomeno a determinare chi delle due è la migliore. E non dico nulla, ma per potermi esprimere ho bisogno, diciamo così, di toccare con mano, ma non è con la mano che voglio toccare. Ciao! A Cruciano. Il maestro Tinto Brass, nel suo discorso socratico L'elogio del culo, enuncia: perverso è chi non è perverso con la propria donna. Siamo al top. Io sono in bici in questo momento e esco tutte le domeniche in bici. Sì. Non faccio sesso da novembre 2019, quindi una cazzata. Mi pare abbastanza evidente questa cosa qua, che sia una cazzata, cioè che quelle che fanno bici come quelle che fanno equitazione. No. Non è assolutamente scontato. Non mischiamo le due cose. Ma come non mischiamo le due cose? Mischiamole. Su quelle che fanno bici. Sulla bici. La bici che fanno bici, l'equitazione, no, equitazione. Ma non si può dire che chi fa equitazione è per definizione una porca, una donna che fa equitazione. No, dai, su. Però posso dirti che nella mia limitata, ma capito, limitatissima, lo dice qualcun altro. Nella mia limitata esperienza, le peggiori porche che ho conosciuto, tutte e quattro, ok? Nella top 10, e c'è un ex aequo, quindi sono quattro, nel top 3, e c'è, sul podio, tutte e quattro facevano equitazione o avevano fatto equitazione. Anche su di me. Intanto ancora ad Inolfi, se mia figlia sta con una transessuale, anzi vive con uno che spaccia, perché pare che quel transessuale spacciasse, quel trans che stava con la ragazza morta a Napoli, me la vado a prendere. Senti. E dico una cosa di più ancora. Bravo, verissimo. E se io fossi, e sono il papà di tre figlie, se io avessi mia figlia, una figlia ce l'ho maggiorenne e due ce l'ho minorenni, che mi dice che a 18 anni lascia la scuola, lascia il suo futuro possibile in un contesto drammatico come quello di Caivano e va a vivere con uno che deve firmare perché spaccia, perché va a firmare in questura, perché spaccia droga, esatto, questo è il modo con cui vive, esatto, senza fissa dimora, esatto, così è. Io, mia figlia, per riportarmela a casa, vado pure io a prendermela, ovviamente senza violenza, ma me la vado a prendere, trans, non trans, non conta niente. Poi il grande scontro con Sofia Maiello, detta la papessa transessuale di Bologna, ad Inolfi contro la trans. Buonasera a tutti, spero anche io di avere i miei minuti, visto che ad Inolfi come al solito manca di rispetto a tutte e ha dei grossi problemi. Comunque vorrei dire ad Inolfi che una figlia che va via di casa da lui fa bene, ma ogni volta può funzionare così, che questi arrivano e insultano e si può fare, ma ogni volta si può fare così, ma ogni volta. Sì, ragazzi, aspetta, prima che un attimo solo, se no mi tocca mettere su una legge per il manicomio, per la riapertura del manicomio. Allora, un attimo solo. Lei dica pure, lasci perdere ad Inolfi, ognuno dice quello che vuole, d'accordo? Le offese personali lasciamo stare, lei dica quello che pensa, dica. Ha ragione, offese personali che fa a noi, fai al nostro mondo. Sì. Ecco, lui sa soltanto offendere e basta. E comunque, tornando alla, come si chiama quella lì, quella di prima? La Nausica che ha il suo dio, io ho il mio dio che mi dice: Sofia, sei una donna bellissima, sei diventata stupenda, vai avanti, perché io comunque predico sempre il discorso dell'amore, se vuoi vai avanti, Sofia, amore, vai avanti, fai cattivere, dai, vai avanti, quindi, vai avanti, fammi la predica a me, falla a casa avanti, tua, ma chi ti dice niente? Sì. Io abbiamo due donne che si sono sputate, si amano, hanno un figlio bellissimo, vanno avanti. Ma tu perché? Ma fai così? Avete fatto bene. Ognuno fa quello che avete vuole. Avete fatto bene. Ma l'applauso te lo faccio io che sei più trans di me, quindi voglio dire, parliamo di. Nausica della Valle, più trans della trans, spettacolare. Ma scusami, dimmi. Allora c'era ad Inolfi una trans e Cruciani, era la zanzara di sera, sì, praticamente assolutamente, sì, verso le 11, sì. Anthony dalla provincia di Milano, intanto non capisco perché Gottardo mi manda un articolo del Gazzettino che recita in questo modo: l'ennesimo caso di rottura del pene è stato trattato con successo nelle scorse settimane dall'equipe di urologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Si trattava di un trentenne residente nel distretto di Asolo, reduce da un rapporto troppo focoso, sottoposto a immediato intervento chirurgico, è stato dimesso dopo alcuni giorni di degenza, perfettamente in forma. Che cazzo vuol dire perfettamente in forma? Col cazzo diciamo che dovrà passare un periodo di che ne so, di riposo, immagino, no? La frattura del pene, forse gli hanno fatto collaudo, no, ma senti, la frattura del pene, così denominata in maniera non del tutto propria per similitudine con le lesioni dei segmenti ossei, spiega il primario, consiste nella lacerazione più o meno estesa della capsula che avvolge i corpi cavernosi che costituiscono lo scheletro del pene. Questo trauma chiuso può verificarsi esclusivamente in erezione, quando la suddetta capsula capsula è sotto tensione e assottigliata per effetto dell'aumento di volume e di rigidità dei corpi cavernosi. In sostanza, la frattura di uno, più raramente di ambedue, i corpi cavernosi è sempre dovuta ad un violento e brusco piegamento del pene eretto. Mamma mia, che impressione! Nella maggioranza dei casi, tale trauma si verifica durante un rapporto sessuale particolarmente appassionato, violento. In particolare, nella letteratura medica si riporta che il rischio di questione di lesione traumatica è maggiore nel caso di adozione durante il rapporto della posizione comunemente nota come dell'amazzone. Capito? Si sente un crack. Anthony, provincia di Milano. Amazzone con la donna sopra, anche leggermente piegata, che comanda lei. Anthony, dimmi. Sì, pronto, buonasera. Dimmi, Anthony. Volevo intervenire a quanto detto la ragazza Anna di Brescia. Sulla virginità a 30 anni non c'era nulla di strano. Io ho 38 anni e sono 5 anni che non faccio sesso. Cioè, tu a 38 anni sei 5 che non, sono 5 che non fai non sesso. Non faccio sesso, ma per una scelta. Cioè, da 33 a 35, a 38 tu non hai toccato, tu no, sei gay. Che cosa sei? Sì, esatto. Sei gay. Okay. Okay, assolutamente. Perfetto. E sono anche, cioè, nel senso, sono un uomo piacente, ma io, per esempio, un rapporto occasionale non lo trovo affagante. Ci ho provato. Ho capito, ragazzi, ma 5 anni sono 5 anni. Manca una pompa ti sei fatto, Pao? Hai fatto una pompa a qualcuno? Zero? No, zero. Cioè, non... Scusami se te lo dico in maniera così brutale, come si dice qua alla Zanzara, ma insomma, cioè, non hai fatto un pompino nemmeno a un tuo, una persona che ti piace, eccetera, o non te lo sei fatto nemmeno fare? No, Ma ti masturbi? Vabbè. Sì, che c'entra? No, per capire, cioè, per capire. Però, se non è proprio quante zero. Volte allora. La settimana? Quante volte alla settimana ti masturbi? Dipende, nel senso, dipende dal bisogno, cioè, nel senso, Poi vabbè, non c'è una regola. Quindi provi un desiderio nei confronti dell'altro. Sì, assolutamente, no, ma cioè, nel senso, il sesso a me interessa. Io ho anche provato comunque a fare sesso senza provare sentimento, però non lo trovo affagante. Quindi ho fatto una scelta. Cioè, da 5 anni non hai un rapporto, diciamo, né con le mani, cioè, non tocchi il corpo di un uomo. Com'è la storia? Sì, esatto, cioè, nel senso, non ho un rapporto fisico. Non è un rapporto fisico, però ragazzi, cioè, questo è un problema, non vedi, però scusami, non vede un uccello da 5 anni, come, cioè, la Martani. Nel 2000 più, no, la Martani da meno, da un anno, più però 2020 oggi, io capisco 20 anni fa, 30 anni fa, dove comunque non era normale, però se uno in 5 anni non riesce a trovare una situazione così, mi sembra, cioè, francamente mi sembra troppo, Anthony, c'è un problema. No, ma mi sono capitate anche occasioni, ma è una scelta che ho fatto, cioè, nel senso, anche se a volte ci ho anche provato, ma non, dato comunque poi mi trovo comunque a disagio, cioè io devo trovare un coinvolgimento e un perfetto connubio fra sentimento e l'atto sessuale. Quindi se non ho capito, però quello... è complicato, amico mio, cioè io ti dico, ti spingo, non è che ti voglio spingere per forza a fare una pompa a uno o a farti fare un bocchino da qualcuno, per carità. No, ma poi guarda, voglio precisare che non è un discorso morale, assolutamente non lungi da me per discorsi morali. Però devi essere innamorato, diciamo. Sì, cioè, nel senso, devo avere un coinvolgimento, cioè, nel senso, emotivo, a tal punto che mi porta appunto ad avere un rapporto sessuale. Altrimenti, capito, però, lo vivo come una forzatura. Cioè, l'ho provato, cioè, nel senso, fino però a 33 anni. Però è da 5 anni che non tocchi un maschio, che non vedi un cazzo da 5 anni. Sì. Vabbè, Anthony, che ti devo dire? Amen, cioè, e così sia, che ti devo dire? Ti benedico, e la Zanzara ti benedice e ti augura tante cose. No, ma ti auguro, mi auguro di innamorarmi. No, ho capito, amico mio, però non è che il sesso si fa solo in questo modo. Uno deve anche farsi scivolare addosso le cose, cioè prendere in maniera un po' meno drammatica. Ma io l'ho fatto anche cioè, però prima adesso non ci riesci più. Vabbè, d'accordo, che ti devo dire? Ciao, ti abbraccio, amico mio. Ciao, ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, una mia amica, una travestita, mi dice: non vedo un cazzo da febbraio. Da febbraio. Febbraio è un po' meno di 5 anni. Un po' meno di 5 anni. Sono, diciamo, febbraio sono praticamente, quant'è? 7 mesi? 7 mesi, più o meno 7 mesi. Luca, provincia di Pescara. Vai, Luca, provincia di Pescara. Dimmi. Niente, io volevo un attimo cambiare obiettivo con voi. Sì, ma non sento bene, non sento bene, Luca. Sento molto basso, sento molto basso. Non vi sentite un po' responsabili? Già, di che cosa? Di che cosa siamo responsabili, Luca? Cerca di metterti meglio. Mettiti meglio col telefono. Parlare. Ma se non metti bene il telefono, che ti faccio parlare, amico mio? Non sento nemmeno quello che dici. No, vai in un posto. Adesso senti? No, c'hai l'auricolare, il via voce, o sei in un posto chiuso, o anzi troppo aperto. E allora adesso vai a fare il culo. Vai, dimmi, è la base Luca, proprio. Dimmi. Praticamente, no, io volevo dire, se voi non vi sentite un po' responsabili, voi siete i più bravi nel rappresentare il peggio. Ma il fatto è che per qua, quello che chiami. Allora? Ma il fatto è che qua tutti tendono ad assomigliare al peggio, no? Ma non ho capito di cosa stai parlando, non ho capito di cosa parli. Cioè il degrado della società dipende da noi. No, non ho detto che dipende, ho detto che praticamente è un'escalation. Cioè tu più fai vedere il degrado e più la società si degrada. Ma voi non vi perché tu ascolti questo programma? Perché ascolti questo ma programma? Chi ti sta perché fa ridere? Chi ti sta chiamando, coglione? È pronta la cena. Fermo là. È la mamma che ti chiama. Fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento La Zanzara. Devo confermare questa teoria. Anch'io ho avuto una storia con una tipa che aveva ben 4 cavalli e faceva gare di equitazione ed era una super porca, veramente al top assoluto. Confermo tutto, alla grande. Cioè Cruciani, ma tu mi inviti una donna come l'Aurora che è una figa atomica e le bocci il piede solo perché il secondo dito è più lungo del primo? Ma il secondo dito deve essere più lungo del primo. Ma chi l'ha detto? Quelli sono i piedi migliori. Cruciani, il secondo dito più lungo dell'alluce è un difetto inguardabile. Veramente rovina un bellissimo piede. Dipende. Cosa stai dicendo? Allora, dipende, ragazzo mio, dipende dalla forma del piede. Se c'è solo quello si può recuperare, dipende poi quanto è il più lungo, naturalmente. Se è molto più lungo è una cosa inguardabile oggettivamente. Ma se la distanza, cioè se la lunghezza dell'alluce è, che ne so, cioè di un certo tipo e si supera, che ne so, di un centimetro, si può accettare. Certo, se è più lungo è una deformità. Il piede di ieri era bello con questo piccolissimo difetto e andiamo sul 7, un 6 e mezzo, 7. Allora, Francesco dalla provincia di Massa, prima però Nausicaa della Valle, che ieri sera sempre da Tetepi ha detto che le sue sofferenze sono state guarite dall'amore di Cristo. Cioè lei quando era lesbica era sofferente. Nausicaa della Valle, vai. Le ferite che avevo nell'anima, tipo rigetto, rifiuto, le ferite dell'anima, ciò che è stato detto, eccetera, eccetera, le sofferenze che creano ferite nell'anima sono state le sofferenze, le ferite guarite dall'amore di Cristo. L'amore di Cristo guarisce dalle sofferenze che hanno provocato la gaitudine, il suo lesbismo. Senti. Quindi guarendo le ferite non sono stata più costretta a elemosinare amore, soprattutto dallo stesso sesso, perché mi è mancato da mia madre, lo stesso sesso, il genitore dello stesso sesso. Quando queste ferite sono state sanate, naturalmente sono ritornata in una posizione originale. Ma bisogna dire quello che pensano gli altri. Se tu non sei più omosessuale sei contro di loro, ma noi non siamo contro di loro, perché noi abbiamo vissuto la stessa cosa che vivono loro, ma di conseguenza siamo stati noi sanati da quell'amore. Basta, non che la malattia è una malattia, nessuno ha detto che è una malattia, anzi la psicologia dice che è un disagio omoaffettivo. Siamo stati sanati da quell'amore, sanati da quell'amore. Nei giorni scorsi, prima di andare a Francesco dalla provincia di Massa, nei giorni scorsi Gottardo ha detto che Mussolini, caro Gottardo, ha detto che Mussolini andrebbe... Ha fatto la fine che si meritava. Certo. Risentiamo un attimo, cioè, hanno fatto bene a fucilarlo in quel modo e ad appenderlo a Piazzale Loreto. No. Beh, io parlo della fucilazione. Vabbè, adesso parlo, non ti nascondere, dai. Anche appesi a Piazzale Loreto non ti dispiace, dai. No, oddio. Perché la Gerardo, gente che ha ammazzato Gerardo, Mussolini Gerardo. Barbaramente hanno fatto bene. Così finisce un dittatore. Gli spari nel culo. Hanno fatto benissimo. Vedi, parli della fucilazione. Guarda chi ti chiamo adesso, guarda chi ti chiamo. Parlo della fucilazione. Guarda, la fucilazione ha fatto bene. Tutti i dittatori finiscono così. Ed è giusto. Cioè, dovevano fucilarlo prima. L'avessero fucilato nel 39. Chi è, Leo? Ah. Sono Cruciani, ciao. Ciao. Lo sai che ha detto Gottardo? Ha detto Gottardo. Gottardo ha detto che hanno fatto bene a fucilare il Duce in quel modo. Hanno fatto benissimo. A fucilare il Duce in quel modo. Certo. Gottardo non sa che a Fiducia l'hanno ammazzato i servizi segreti inglesi. Però hanno fatto bene a fucilarlo in quel modo. Dovevano fucilarlo prima. È un problema suo. Sì, io spero che fucilino a te. Io non farò il dittatore. Che tu difendi, ti taglio la gola a te come ha fatto lo prete. Adesso ti stai augurando la morte di Gottardo. Sono come Mussolini, quindi. Tutti quelli come loro, perché hanno rotto il cazzo. Hanno rotto i coglioni. Non ho capito. Ma non si può dire che uno è contento se è morto un dittatore. Gottardo non lo può dire che è contento. Se lo dice a me che sono fascista, mi dà fastidio, se permetti. È come se dice un musulmano, capito? Sì. Che non so, Allah è una merda. Quindi è una religione. È una fede. Io sono una fede. Mussolini era un dio per lei. Non era un dio. Ho capito, ma era un dittatore. Era di fatto un mandante di omicidi. Ha fatto solo che bene all'Italia. Ah, solo del bene, glielo dica a Galeazzo Ciano, per esempio. Che c'entra Galeazzo Ciano? Ha fatto bene a ammazzarlo, l'ha tradito, gliel'ha messo in culo. Ah, fatto bene. Quali altre cose buone ha fatto il Duce? Gli alpini sul Don, per esempio, è una cosa buona. Ma voi lo sapete che la tredicesima? Se abbiamo mezzo milione di italiani in meno, ma fate schifo voi ancora. La strage degli alpini. Ma vai, aveva le mani che non rondavano di sangue. Ascoltami, tu ciccione di merda, cosa? Ah, benissimo, ma vieni a dirmelo, che sai dove trovarmi. Vieni ad Abano, vediamo chi li abbassa. Sei un coniglio come tutti i fascisti. Tutti i conigli fascisti. Leoni al telefono, conigli nella vita. Leo Randisi, il fascista. Lo proclama viva voce, il fascista. Ma le canzoni non le sa. Il tuo capo, Leo, scappava come un coniglio, scappava quando l'hanno fucilato. Lo dici tu, perché io sono di fede fascista, perché il fascismo ha fatto tante belle cose, ok? Hanno ammazzato pure un sacco di gente, amico mio, era una dittatura, dai su, ma che vuol dire? Ma voi vi rendete conto di stare parlando di una cosa che non c'è più da 80 anni? Ok, ma sei tu che dici di essere fascista? Sei tu che ci credi? Io ci credo e lo rivendico. In una roba morta. Che faceva? Italia, capito? Non c'è sto bordello qua. Ma sono tutti ladri qua, parli dei politici. E che facciamo? Facciamo tornare la dittatura con Benito? Ma non è quello. Rispetto, disciplina, regole, rispetto, non c'è più rispetto. Per colpa queste merde buoniste, capito, sinistroide, che tutti possono fare giovinezza, tutto. Giovinezza, primavera di bellezza. Mussolini, la. Onore al Duce, sempre te. E con quella facciata tua è merda, che crepasta stasera prima di andare a dormire, mi viene un po' di fretta, tutti quanti muoiono. Ma vai a far culo. Senti, il leone è da tastiera. Sto pensando di farmi trovare una sera, non preoccuparti, però poi mi vedrai. Fatti trovare da uno psichiatra. Certo, anche da uno psichiatra. Poi ci vuole uno psichiatra, perché li faccio fuori tutte e due, poi ci vuole uno psichiatra. Queste sono minacce dirette. Allora, se capiti qua sotto c'è la Digos che ti inquadra, ti fa un bucio di culo così, amico mio. Ti fanno un bucio di culo così. Comunque, altro che se non devi dire sparare cazzate. Prima a Cruciani. No, ma spara prima a Gottardo, al limite. No, vai a fare in culo. Io non sparavo. Ciao, vai a fare in culo. Vai a spara di cazzo. Ciao. signor Randisi, signor Leo, è sempre un piacere parlare con il fascista, signor Leo Randisi, sì, signor Leo Randisi. Equilibrato. Francesco dalla provincia di Massa. Francesco dalla provincia di Massa. Buonasera. Dimmi, amico mio, dimmi. Allora, io sono fidanzato con un transessuale da anni. Sì, e sì. Ti posso assicurare che questa legge della transfobia è una cagata della Madonna. Ma certo, ma è normale, ma giustamente. Mamma mia, deve essere una cosa normale, non c'è bisogno di una legge, ragazzi. Ma certo che non c'è bisogno di una legge per condannare uno che no, le espressioni, oppure per dare più anni a qualcuno che uccide un gay o che fa della violenza nei confronti dei gay. Ma ragazzi, che lavoro fa il suo fidanzato o la sua fidanzata, a seconda di come lo guardiamo? Vabbè, dimmi Francesco, che bello. Parrucchiera, truccatrice professionista, partita IVA. E si è mai sentita discriminata sul luogo di lavoro? Ma sì, magari sì, ma è normale. Assolutamente. Cioè, assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente sì. E vabbè, d'accordo, questo è un problema che sappiamo, che conosciamo. Certo che le persone vengono discriminate, non c'è dubbio, bisogna superare. Il vero problema è l'ignoranza che c'è in Italia, la mentalità retrograda. La mentalità retrograda, certo, non c'è dubbio. Se uno deve assumere un transessuale, magari ci pensa tre volte prima di assumere, magari non lo assume, dire, ma questo non c'è dubbio. Ma io sono, esatto. Ma sono assolutamente d'accordo con te da questo punto di vista. Però non c'entra un cazzo una legge. C'è una legge. E comunque sono più discriminato io di lei, se per quello. Cioè, in che senso? Ah, perché sei fidanzato con un transessuale? Esatto. Ma perché ti sei fidanzato con un transessuale? Ma innanzitutto c'ha il pisello oppure no? C'ha il pisello, sì. C'ha il pisello. Dunque, ti piace un po' il cazzo? Lei lo prende. Ma lo prendi anche dietro? Lo prendi anche dietro? Ovviamente. Ah. Cioè sei attivo e passivo? Certamente che sì. Ma ragazzi, ma il mondo è così. L'altro giorno Feballa ha detto che ormai è abbastanza normale pigliarlo in culo. Ma qual è il problema? Non è più un tabù, assolutamente. Ciao, i generali romani andavano sia con i ragazzi che con le donne. È inutile farsi segmentare. Assolutamente. Aprite la mente. Ciao. Open mind, baby. Allora, ieri sera è andata all'attacco di Adinolfi anche della signora Nausica della Valle, la papessa, la grande papessa, transessuale bolognese, un grande mito. Buonasera papessa, come stai? Ciao, chi è che ha detto insomma? Buonasera. Ma è Gottardo. Beh, insomma, qui, signor Gottardo. Quando si tira in mezzo il Papa, la papessa No, sai perché papessa? Perché cioè, come cognome faccio Papa e quindi papessa. Ah, papa non ok, mi piaceva. va bene. E quindi Sofia Meyel, tra l'altro. Sì. Tra l'altro, ma tu ce l'hai il pisello ancora o no, amica mia? Vedi tesoro mio, è che ormai io non faccio più audience perché non ce l'ho più, me l'hanno consumato, quindi ho deciso di cambiare sesso. Ma perché? Ma perché hai fatto? Perché hai finito questo percorso? Perché hai finito questo percorso? Spiegami. Perché una volta lo davo un tanto al chilo e quindi poi ho detto mi sono rotta le palle, ho detto anni fa. Ma hai fatto una cazzata secondo me a tagliarti il cazzo, posso dire? No, io ho cambiato vita, faccio volontariato, faccio parte di un direttivo, seguo gli immigrati, quindi lo faccio con piacere. Che senso che bella vita? Perché prima che facevi la puttana? No, io facevo la mistress, la puttana mi piaceva, io amavo sodomizzare. Ma la puttana dico in senso positivo, prima amavi sodomizzare a pagamento o no? È normale, certo, non ho problemi, certo, poi dopo che avevo fatto un sacco di volte i locali, tutto, poi ho fatto due canzoni, insomma, diciamo, mi guadagno la vita molto bene. Però ieri, ma onestamente, non è che quelle che fanno le prostitute non se lo guadagnano onestamente? No, cioè, no, è una presa in giro perché io, come tu senti, io sono una molto sincera, le cose che dico io non nascondo il mio passato come fanno molte, capito? Quindi io... Prima amavi sodomizzare, cioè amavi il mestiere tuo era sodomizzare le persone, eri una mistress anche in Germania. Mamma amica mia, che cosa meravigliosa. Ma perché hai cambiato vita? Non era bello continuare a sodomizzare gente? Comunque che si senti Cruciani, cioè la vostra trasmissione è pazzesca, cioè io purtroppo non è che seguo molto, ma siete pazzeschi. Ma senti, scusa, ma perché dovevi togliere? Perché ieri hai detto ad Adinolfi che una figlia dovrebbe ma scappare Adinolfi, via da... Adinolfi non si rende conto che forse a casa sua non ha gli specchi, cioè Adinolfi dovrebbe pensare alla sua salute, perché è brutto com'è, grasso com'è, invece di pensare di rimanere, vedi, però è incredibile, rischia un infarto, però, invece scusi, di rompere i coglioni a noi, pensate alla tua salute. Ma però, chi è che sta parlando? Ma chi è che sta parlando? Sono Gottardo. Gottardo. Io sono in un hotel di Abano appunto per curare la mia obesità. E sono stanco che persino i transessuali pigliano per il culo i ciccioni. No, perché guarda, io credo che sia incredibile questa cosa. Cioè lei che sia fatta tagliare il cazzo, rompi i coglioni ad Adinolfi perché è grasso. Me l'avete mangiato tutta l'Italia e Germania incluso. Allora, senti un attimo, Gottardo, per il culo tu puoi parlare a me. Tu fai parlare a me un attimo. Stai zitto un attimo, Gottardo, non rompere i coglioni, dai. Allora, intanto non sono più trans, quindi non faccio odio, sono una semplice diga come tante. Uno, due, se vuoi che la gente ti piglia per il culo, che ti dice che il grasso è bello, il grasso non è brutto, il grasso può dare problemi. E te lo dice una che nel 2010 era ciao Darby, quindi mi puoi vedere, ed ero 130 kg, quindi ero orgogliosa di essere cicciona, quindi inutile, cioè io rido, scherzo. Anche no, però lui dice, perché pigli per il culo Adinolfi? Perché io ho risolto un problema. Io ho risolto un problema, sai che significa che io. No, ma quello lì invece di rompere i coglioni al prossimo, pensa ai suoi problemi che sono di più invece di rompere i coglioni. Senti, ma non si una lecca da figo lecca un cazzo. Ma che cazzo gliene frega? Quello è giusto. Perché nel suo culone il cazzo si perde. Beh, oddio, adesso quello magari non ama, lui non ama il sesso anale. Ma sì, vabbè, ma ricordati che tutti quelli, la maggioranza di quelli che vanno contro i gay omosessuali sono omosessuali repressi. Cioè, tu dici lo vogliono pigliare segretamente, lo vogliono pigliare in culo. Ma sì, viva la prostata, che gli funzioni bene. Scusami, sì. scusami un attimo, cara papessa, ma Nausicaa della Valle, che tu hai detto essere più trans di me, più trans, allora, di te, dall'aspetto. A me di giorno non mi sgamano, cioè voglio dire, se lo sapete che nel mio ambiente sono conosciuta, ma quando vado per i cavoli miei. Ma è possibile che uno dice, è possibile che uno dica, come dice lei, che è stata sanificata ed è passata. Ma Cruciani, se ha una ferita, cioè ha delle ferite sanate, secondo me, forse non aveva trovato in passato una lingua giusta da farsi spennellare, quindi poi ho trovato un altro pennello. Certo. Scusi, papessa. Oddio, Gottardi, Dio, datemi una mano. No. Diventiamo seri per un momento. Diventiamo seri per un momento. A proposito di ferite, è un po' difficile essere seri. È vero che quando le tagliano il pisello e poi lo formano con lo scroto una specie di vagina artificiale, no? Ma che questa bella, però da tanto piacere, sai? Ma oggi tu con chi lo fai sesso? Può diventare purulenta, dà dei problemi pazzeschi, è vero oppure no? Dipende dove lo fai, se lo fai con la mutua è un conto, se lo fai invece a pagamento dove l'ho fatto io, che paghi tanti soldi, però c'è un risultato pazzesco, è normale. Se tu vai a comprare una macchina scassata degli anni 80 è un conto, se compri un Ferrari e voglio di correre. Per cui la tua figa adesso è perfetta? E godo anche tanto. Addirittura. Ormai faccio parte, ormai sono una donna etero, quindi. Ma chi è che ti piace? Anche se ho un passato da lesbo. Ma chi è che ti piace di più? Che maschi ti piacciono di più? L'uomo col cervello, indipendentemente. No, ma che tipo di maschio ti piace? Nordico, cioè, ma il maschio un po' macio, cioè di quelli. L'etero o il gay? Addio, il mio sogno è sempre stato quello di avere un gay, ma. Perché io amo i gay, ma in modo pazzesco, però giustamente un gay va con un uomo, non viene con una figa, quindi figurati, sarebbe il mio sogno, e quindi comunque alla fine mi ritrovo sempre con degli etero intelligenti, con dei gran cervelli, perché un etero, cioè, per l'amore, con tutto rispetto, io voglio un uomo che non mi interessa la bellezza, ma che abbia un cervello. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Caricio voglio ridere. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.